Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori da parte di Diego Manetti, un ben ritrovati sulle frequenze di Radio Maria per questo consueto appuntamento del primo sabato di ogni mese con un tema un po' particolare, forse difficile persino consigliarsi se avessimo qualche amico che ancora non conosce questo ciclo di conversazioni, perché sembra quasi che non stia neanche molto bene dire ascolta questa trasmissione perché si parla della morte. Ma abbiamo già detto altre volte che forse il primo scopo di questo dialogo è proprio quello di sollevare quella sorta di velo, di silenzio, di censura che è caduta su questo argomento così decisivo per comprendere il valore della vita dell'uomo, cioè la morte. Concludevamo la volta scorsa parlando proprio della possibilità di sopravvivere in modo naturale a quella che è la morte biologica attraverso il ricordo dei posteri. E vi ricordo che sto seguendo la nuova edizione del libro Oltre la vita eterna spiegata a chi cerca, siamo al capitoletto numero 8. E per quanto riguarda questo interrogativo, il poter sopravvivere nella memoria dei posteri, dicevamo che in realtà sembra il privilegio di pochi. Se è vero che sopravvive chi lascia una traccia importante nel campo della cultura, del sapere, dello spettacolo, ma potremmo dire anche del cinema, della letteratura, del calcio, della storia o della politica, beh, è vero che sono in realtà pochi quelli che fanno la storia. A fronte dei 7,5 miliardi di esseri umani che vivono oggi sul pianeta Terra, a fronte del milioni e milioni di uomini che sono già morti in precedenza e che fanno di questo pianeta un grande cimitero, viene da chiedersi quante poche migliaia sono le personalità che hanno lasciato una traccia lungo la storia della civiltà umana. E facevo l'esempio la volta scorsa proprio di Giacomo Leopardi, dicendo che la sua morte svela un po' l'illusione di poter sopravvivere nel ricordo dei posteri, nel senso che non tutti siamo Leopardi, Manzoni o Napoleone per essere ricordati nel bene o nel male da chi verrà dopo di noi, ma lo stesso Leopardi in punto di morte, come dice nel suo libro All'apparir del vero, il mistero della conversione e della morte di Giacomo Leopardi a firma di Marcello Dorta, in questo libro si dice appunto che negli ultimi istanti della sua vita Leopardi conferma il desiderio di prepararsi per quello che è il momento decisivo della sua esistenza e chiede che venga mandato un sacerdote per potersi confessare e morire, come poi dirà Ranieri scrivendo ai suoi familiari, munito dei conforti religiosi, come già aveva fatto in precedenza. Ecco che allora se Leopardi stesso non è lì a preoccuparsi di far ristampare copie dell'infinito per accontentare i suoi lettori e poter accrescere la sua fama, è evidente che non basta pensare di sopravvivere nel ricordo delle persone che verranno dopo di noi. Perché? Perché non siamo tutti così famosi, non siamo tutti così importanti. E poi potrei dire che quando si parla di imperitura memoria non si dice una cosa vera, perché di tanti personaggi storici, famosi forse 2 o 3 secoli fa, oggi neppure più si parla. E questo lo sa bene chiunque insegni storia, vede come a rotazione si perdono, si smarriscono proprio le tracce dei grandi che, grandi oggi, domani si possono tranquillamente accantonare. Allora veniamo proprio al tema di questa sera, cari amici, ma posto che è veramente per pochi questa memoria riservata ai posteri, che ne è del ricordo dei nostri cari una volta che siamo defunti? E questa è una domanda che ci poniamo pensando ai nostri cari che non sono più, ma con un po' di realismo dovremmo porci pensando anche alla nostra esistenza terrena. Allora, restando proprio nel tema della sopravvivenza nel ricordo dei posteri, uno potrebbe aggirare l'ostacolo. Anziché dire sono pochissimi quelli che lasciano una traccia degna di memoria, sono pochi coloro che hanno fatto qualcosa di sensazionale a livello di arti, di spettacolo, di storia o di politica, uno potrebbe dire, beh, in fondo sono pochissimi i grandi di cui il mondo si ricorderà, però chiunque rimane nel ricordo dei propri cari. Ecco, uno potrebbe ovviare all'ostacolo in questo modo. Non pretendiamo tutti di essere Manzoni o Leopardi, ma uno potrebbe dire i miei cari mi ricorderanno e questo sarà il mio modo di sopravvivere. In fondo, chi dice che sopravvivo soltanto se mi ricorda il mondo intero o la maggioranza delle persone? Potrei sopravvivere nel ricordo di chi mi ha amato. Questo è un tentativo abbastanza diffuso e nasce ad un'osservazione comune e condivisa. Tutti hanno figli, parenti e amici che nutrono affetto per loro. E che potranno conservarne un caro ricordo quando saranno morti. Non potrebbe essere questo un modo efficace per rispondere alla precarietà della vita terrena? Una sorta di spada di Damocle, quella della morte e della dimenticanza che pende sul capo di ognuno, ma in fondo, se i nostri cari ci ricordano. E tra l'altro sopravvivere nella memoria dei propri cari sembra anche un po' più democratico e meno elitario che non sopravvivere nella memoria dei posteri perché si sono compiute delle gesta memorabili. Potrebbe allora questa essere una soluzione? Questa è la domanda che pongo. Ecco, dico subito di no. No per due motivi. Primo, intanto se mi accontentassi di sopravvivere io stesso, nel ricordo dei miei cari mi esporrei a un rischio grandissimo, cioè a quello che se quello che di me sopravvive è il ricordo che i miei cari conservano, è ovvio che quando i miei cari moriranno scomparirò anch'io. Allora questa memoria cosiddetta imperitura sarebbe una vana chimera. I grandi della storia si dimenticano nel giro di qualche secolo, ma i propri familiari, parenti e amici si perdono molto più rapidamente. Faccio il test a scuola con gli studenti per dire: ma voi vi ricordate i nomi dei vostri trisavoli, dei vostri quadrisavoli? Nessuno sa rispondere. Basta così poco per dimenticarsi di coloro che sono stati pure dei ganci fondamentali per arrivare fino alla generazione a cui si appartiene in prima persona. E detto così, diciamo che uno potrebbe anche magari dire, non so, i miei cari non mi ricorderanno, pazienza, che il mondo si dimentichi di me, cosa me ne importa? E tuttavia, quando pensiamo ai nostri cari, a coloro che ci stanno veramente a cuore, incominciamo a pensare che il mondo potrebbe dimenticarsi anche di me, ma che quella donna che ha condiviso magari il mio cammino di vita per 50 anni, quel figlio tanto amato, quel genitore che mi ha accudito così amorevolmente, scompaia nel nulla, questa cosa non riesco proprio ad accettarla. Questa è un'esperienza, cari amici, che ha fatto anche un grandissimo protagonista della storia della Chiesa, che è Sant'Agostino, il vescovo di Ippona, protagonista della storia della Chiesa dalla metà del IV secolo alla metà del V secolo. Nelle sue Confessioni, che sappiamo un'opera scritta poco più che quarantenne nel 397, quando ricorda un po' tutto il suo cammino, ecco, di conversione, di avvicinamento a Dio, dà un po' testimonianza della sua parabola spirituale e ancora prima filosofica. A un certo punto racconta di quando perde il suo miglior amico. E che cosa dice? Che a un certo punto era un po' la sua anima gemella, un'anima gemella con cui si poteva forse specchiare e riconoscere, appena adolescente, forse 17 anni. Condividevano una sorta di leggerezza nei confronti della vita, dice Agostino. Non credevano, si godevano i piaceri della giovinezza, come potrebbe fare chiunque anche ai giorni nostri, alla loro età. Finché a un certo punto questo giovane si ammala. E si ammala Agostino ovviamente in pena perché è il suo miglior amico, caro come se stesso, mentre malato gli viene dato il battesimo. E improvvisamente si riprende. E dopo che si è ripreso, Agostino va a trovarlo e lì per lì ci scherza anche sopra, no? Come dire, ti è andato il battesimo, che è una roba per le vecchiette e le bigotte, e meno male che adesso è andato tutto bene. E la reazione dell'amico lo stupisce perché lo vede farsi tutto serio e dire: non permetterti di prendere alla leggera queste cose. Insomma, questo battesimo ricevuto nell'agonia, quando forse non era neanche così consapevole, ha sicuramente portato un cambiamento interiore notevolissimo in questo ragazzo, un cambiamento che si trova Agostino stesso a dover riconoscere. E rimane perplesso, però dice: vabbè, ma magari una mania di un momento gli passerà. E invece che cosa capita? Che passano pochi giorni, questo amico si riammala e muore. Ed ecco come descrive Agostino il proprio dolore dinanzi alla morte di questo carissimo amico. Io sentii che la mia anima e la sua erano state un'anima sola in due corpi. Sapete che bello? Cioè, tanto profonda era la comunione con questo amico che diceva era come essere un'anima sola divisa in due corpi. Perciò la vita mi faceva orrore, poiché non volevo vivere a mezzo, e perciò forse temevo di morire. Ecco, anche Agostino dice: io temevo di morire. Questa paura è evidente che uno potrebbe dire: ti muore un coetaneo giovane, è ovvio che temi anche tu di morire. Nessun adolescente normalmente avverte il timore della morte quando perde il nonno, perché è la scomparsa di una persona anziana, di una persona che si dice naturale, che vada alla fine della sua esistenza, ma quando forse ti muore un coetaneo è molto più facile chiedersi: ma fino ad oggi ero consapevole che la vita è così fragile, così precaria, oppure no? Io aggiungo che in realtà Agostino, all'epoca, per quanto lontano dalla fede, per quanto ancora immerso in quelle che sono le catene degli istinti, delle passioni, i piaceri del mondo, era in realtà dotato di un'intelligenza finissima e non si limita a dire temevo la morte perché temevo di morire io, punto, ma va oltre. Perciò forse temevo di morire per non far morire del tutto chi avevo molto amato. Ecco, il giovane Agostino si sente dunque lacerato perché da una parte non vorrebbe più vivere perché mancando la persona amata è come se la vita non avesse senso, ma dall'altra teme di morire lui stesso perché sa che con la sua morte scomparirebbero tutti i ricordi dell'amico, tutta quella parte che nella memoria di Agostino lo manteneva ancora vivo. E quindi quando uno dice io mi accontento di sopravvivere nel ricordo dei miei cari, non sta risolvendo il problema, semplicemente posticipa di un poco la questione, perché quando morirai tu, che porti il ricordo di quelle persone che ti sono care, evidentemente scomparirà anche quel tuo amico. Secondo motivo per cui il ricordo dei nostri cari non è una risposta sufficiente al problema della caducità della vita umana, al problema della morte, sta semplicemente nel fatto che il solo ricordo della persona amata non ci basta. Non è un'affermazione generalizzata questa, non è un'ipotesi di principio, ma è un'esperienza che io stesso ho vissuto. Mi è capitato una ventina d'anni fa, quando ero all'inizio della mia esperienza da insegnante di storia e filosofia al liceo. Insegnavo in un istituto tecnico a Verbania sul Lago Maggiore e ricordo che affrontando Sant'Agostino con una quarta abbiamo proprio toccato questa pagina, una pagina che ho scoperto quando ero adolescente, che ho sempre cercato di proporre e riproporre anche ai miei studenti. E quindi abbiamo letto insieme queste pagine delle Confessioni in cui Agostino ricorda la scomparsa del suo miglior amico. Terminata la lettura, ho lasciato ai ragazzi come un compito, ho detto scrivetemi se volete per email il vostro pensiero in merito e mettete un'impressione personale su questo brano confrontandolo con la vostra esperienza, no? In modo da esprimere un giudizio. Oggi ci si accontenta a volte di dire mi piace, non mi piace, invece serve un giudizio, cioè un paragone tra quello che si legge, quello che si ascolta, quello che si apprende e la propria esperienza. Questo è anche un po' il metodo che cerco di seguire nel mio essere insegnante, no? Ovviamente ho precisato che era un compito facoltativo perché il tema è molto delicato, parlare di morte non è semplice, anche se lo si fa attraverso un autore e una parte di programma scolastico, e quindi non volevo forzare in nessun modo la mano. Ebbene, il giorno dopo io sono tornato in classe e ho dovuto dire ai ragazzi che ero stupito e soddisfatto. Perché immaginate, su 24 allievi, ben 21 avevano scritto email sul tema. E io ho passato buona parte di quella notte leggendo le loro produzioni. Tra l'altro dico che anche quei ragazzi che a volte non riuscivano a emergere come particolarmente brillanti durante le lezioni di filosofia e di storia, in realtà avevano dato prova di una profondità insospettata. E da lì mi sono detto: Diego, sii sempre prudente nel giudicare gli studenti, perché alcuni sono proprio semi caduti così nel profondo del terreno della vita che ci mettono molto più tempo a germogliare di quanto tu ti immagini. Lascia tempo e vedrai che ci sono delle cose belle, no? Magari anche proprio inattese. E devo specificare che non si trattava di una classe omogenea dal punto di vista delle convinzioni morali o religiosi, e aggiungo che già all'epoca ben pochi erano quelli che oggi definiremmo cattolici praticanti, diversi si professavano atei, materialisti, la maggioranza semplicemente indifferenti. E sapevo che un'alunna in particolare di quelle mi attendeva al varco perché era molto critica nei confronti delle mie posizioni. All'epoca non avevo ancora l'abitudine di girare con la croce di il crocifisso di San Benedetto appeso al collo, però esprimevo con chiarezza il giudizio su tutto quello che accadeva nell'ottica della fede come esperienza vissuta e paragonata con la vita, e quindi sapevano benissimo che ero cattolico, credente e praticante, e questo sempre con rispetto, no, delle idee dei miei studenti, ma col desiderio di confrontarmi, sapendo che educare vuol dire comunque offrire un'ipotesi di vita in atto e sfidare in senso positivo la libertà dello studente. Ecco perché il finto neutralismo di certa scuola statale di oggi, che poi magari sbandiera grandi programmi di colonizzazione ideologica, pensando che siano invece così delle idee neutrali e da condividersi come niente fosse, evidentemente non collimava, no, col mio modo di intendere la scuola. Quindi grande rispetto per tutti, però difendevo la mia fede, la mia cultura cattolica fino allo stremo. E quindi, insomma, mi trovo a vedere un po' questa alunna, chissà come reagirà. Quindi inizio la lezione dicendo che avrei potuto presentare soltanto l'email più bella perché non potevo leggerle tutte, e con grande sorpresa di questa alunna in questione, questa così lontana da Dio, così non soltanto indifferente, ma addirittura avversa, io incomincio a dire: leggerò l'email più bella, e incomincio a leggere proprio la sua, che posso citare nei passaggi fondamentali perché l'ho conservata. Ecco, un'email che ho conservato, sono passati una ventina d'anni, ma la conservo perché è veramente molto profonda, molto intelligente. Dice così: i ricordi sono sempre tristi, sono solo una povera ricompensa, una sensazione dolce e amara. Cose a cui noi ci aggrappiamo. Ma non è forse un'azione disperata questa? Quindi capite che già chi scrive, 17enne, dice forse è qualcosa di inutile aggrapparsi ai ricordi. Continua: non si può pensare a qualcuno che per varie motivazioni non ci sta più accanto senza provare tristezza, senza sentire improvvisamente il cuore un poco più pesante. Non è forse una condanna ricordare l'assenza di qualcuno in eterno? Quindi vedete che qui emerge addirittura un profilo quasi nichilista, come dire, no? Il ricordo è peggio ancora che non la semplice dimenticanza, perché ravviva il dolore per un'assenza. Io, dice, preferirei non ricordare invece. Il ricordo di qualcosa che non c'è più, anche se felice, si trasforma in triste, porta dolore. E poi qui arriva la chiave di volta, perché dice, ed è questo il problema. Non voglio il ricordo dell'amicizia, voglio l'amicizia. Ecco qui l'intelligenza anche di questa giovane anima così lontana dalla fede, così magari contraria a certi insegnamenti della Chiesa Cattolica, eppure capace in poche righe di esprimere proprio quello che è l'essenza del cuore dell'uomo. Da una parte sentiamo che il ricordo della persona amata non è soltanto dolce, ma anche triste. Dall'altra ci accorgiamo che il ricordo in sé non ci basta, perché noi vorremmo poter stringere la mano di chi non c'è più, vorremmo poterlo abbracciare, vorremmo che fosse ancora con noi. Una presenza reale è incomparabile rispetto a un ricordo. Se io dovessi andare a cena con la persona che amo, ma non sceglierei mica di andare a cena da solo portandomi la sua foto nel portafoglio. Sì, pago metà del costo della cena, ma sarei da solo. Sceglierei invece di essere con lei presente in carne e ossa. Mi viene in mente quando ho cominciato a fare il primo giro di presentazioni di questo testo, che era uscito nel 2015, quindi 5 anni fa, e una sera in un paese vicino a Casale Monferrato, dove vivo, mi trovo tanti amici che conoscevo. Questo libro lo sa chi l'ha già letto, lo sa chi mi conosce, nasce anzitutto dall'esperienza della perdita di mio fratello gemello, Gianluca, in un incidente di moto il 22 marzo 1997, e poi ovviamente si sviluppa cercando di riflettere sulle domande sulla morte che porta qualunque uomo nel cuore. Fatto sta che al termine di quella presentazione, che in realtà era una condivisione, una testimonianza, mi trovo con un signore, penso avrà avuto una sessantina d'anni, che viene a dirmi: "Io ho una domanda da farle." Ma mi dica: "Ma lei dice che davvero ci sarà la resurrezione dei corpi alla fine dei tempi?" Ma mi ha sorpreso, perché pochi fanno questa domanda. Dico: "Ma certo, lo affermiamo anche nel simbolo della nostra fede, credo la resurrezione della carne, e lo insegna la Chiesa Cattolica." "Ma lei è proprio convinto?" Mi incalzava. E ho detto: "Ma scusi, sì, sono proprio convinto, cioè, ma perché le sta così a cuore questa questione?" E mi dice: "Perché io ho perso mia figlia Antonella di 17 anni in un incidente e voglio essere sicuro un giorno di poterla riabbracciare." Ecco, questa domanda, che sicuramente susciterà tante emozioni e riflessioni anche in voi che siete all'ascolto, perché tutti abbiamo una o più persone care che non possiamo più abbracciare, che non possiamo più guardare negli occhi, che vorremmo che fossero ancora con noi. E allora capiamo quello che ha scritto quella mia alunna una ventina di anni fa, dicendo: "Non mi posso accontentare del ricordo dell'amicizia, voglio l'amicizia." Ecco allora i due motivi che sono un po' il cuore della conversazione di questa sera, ma non mi fermerò qui, per cui non posso dire: "Il ricordo dei miei cari basta per superare il problema della mia morte." Intanto perché anche i miei cari moriranno, io scomparirò, anche io morirò, e il ricordo dei miei cari scomparirà. E poi perché il ricordo non ci basta. Da questo punto di vista, mi collego anche a fatti più di attualità, quando si sentono a volte episodi di violenze omicide perpetrate in famiglia. Penso al caso di quel padre di due gemellini dodicenni, che nell'ambito di una separazione molto dolorosa e controversa con la moglie, ha ucciso i propri figli e poi si è tolto la vita. Mi ha suscitato tante riflessioni questa vicenda, anche vedendo come è stata affrontata dai giornali, dai quotidiani, dai media, dalla TV. Quando c'è una morte tragica, una violenza familiare, ci si butta a pesce, proprio ricamandoci sopra, pensandoci, poi scadendo nelle solite considerazioni ovvie e generali, no? La colpa è della società, la colpa è della famiglia, non c'è più l'amore di una volta, eccetera, eccetera. A me invece hanno colpito due cose. Primo, che ho sentito pochissime persone pregare per questo padre, che dopo aver ucciso i suoi due figli si è tolto la vita. Invece ho subito pensato, perché questo è l'argomento di cui parliamo, cioè l'uomo di fronte alla morte. Io, di fronte alla morte di qualcuno che si toglie la vita, soprattutto dopo aver compiuto un atto così atroce e grave come l'uccisione dei propri bambini, anzitutto prego. Anzitutto cerco di offrire un'indulgenza plenaria, cerco di ricordarlo della messa. E uno potrebbe dirmi: "Ma dopo un duplice omicidio, un suicidio, pensi ancora che ci sia spazio?" Beh, sì, perché questo povero uomo si è buttato giù da un viadotto, ha fatto un volo di 100 metri E a me è subito venuto in mente quell'episodio in cui Padre Pio si trova a confessare, a consolare una donna disperata perché il marito si è suicidato, si era buttato nel fiume, diceva a Padre Pio: "Io mio marito l'ho perso per sempre all'inferno." E lui che diceva: "Non disperare, non è così, è salvo." "Ma com'è possibile?" obiettava lei. "Perché tra il ponte e l'acqua c'è stato il tempo di un Gesù mio, perdonami." Ecco, io questo pensiero l'ho avuto subito anche per questo padre e ho pensato: quanta carità c'è nella preghiera di chi non giudica e affida alla misericordia di Dio quest'anima, desiderando che possa salvarsi, perché quello che ha compiuto è tremendo, tremendo nei confronti dei suoi figli, tremendo anche nei confronti di se stesso. Oggi viviamo in una società che spaccia l'eutanasia come segno di civiltà, e in realtà è evidente che la vita non è tua. È un dono che ti è dato di amministrare per rendere felici gli altri, non te la puoi togliere suicidandoti. È un atto gravissimo e non lo dico da cattolico, anzitutto lo dico da uomo, da chi riconosce che la vita è un dono sacro e inviolabile. E quindi verrebbe da dire: non possiamo semplicemente biasimare un duplice omicidio, per di più nei confronti dei figli, ma anche biasimare il suicidio, perché l'assoluta autodeterminazione che oggi si pretende dovrebbe giustificare questa scelta, in realtà è un'illusione. La mia libertà non può finire soltanto dove inizia la tua, ma deve finire ben prima, perché la mia natura e il fine ultimo della mia vita non li decido io, mi precedono. Poiché sono una fragile creatura, figlia di un Dio che ha un progetto d'amore meraviglioso su di me e che mi chiede soltanto di usare bene la mia libertà per scegliere i mezzi più efficaci per realizzarlo e per darvi compimento. Poi aggiungo però un secondo pensiero: non solo riflettevo su quanto poche fossero le persone o le riflessioni che almeno erano emerse, no, nel bailam di notizie, commenti e giudizi che pensavano anche all'anima di quest'uomo, ma mancava una prospettiva di trascendenza anche da parte dei bambini. Un articolo in particolare mi ha colpito perché raccoglieva i pensierini di tutti gli amichetti che scrivevano su questi due bambini, dicendo: "Non so, ricorderò per sempre il tuo sorriso, quanto era bello giocare con te", ma tutte cose belle. Ma la prospettiva era solo questa: addirittura un bambino diceva: "Non mi perdonerò mai il fatto che non ci sei più", ma come se fosse colpa sua che questo bambino era morto così tragicamente. Un altro diceva: "Ti porterò nel cuore ovunque andrò", ma una frase degna di un quarantenne. Ma perché i bambini scrivono cose così, mi chiedo? Ma perché nessuno di questi ha parlato di "pregherò per te"? Ti presenterò a Gesù, che la Madonna ti accolga in cielo, ci rivedremo in paradiso. Ecco, non c'è più la prospettiva di questo oltre, di questa trascendenza, di questa vita che non finisce. Ed è triste vedere che neanche questi bambini, coetanei, di queste povere vittime, quindi di 12 anni, non avessero questa prospettiva. Cioè non avessero l'idea di poter augurare qualcosa di meglio a questi loro amichetti. Cioè il massimo che puoi pensare è di dire: "Ti ricorderò", ma cioè ti basta il suo ricordo? Non ti interesserebbe lui? E allora mi viene da dire anche quanto si fallisce nella missione di educatori, genitori o meno che si sia, quando non si trasmette questa idea del poter vivere oltre la morte, che è proprio della nostra natura. Ecco, questo è un punto a cui tengo moltissimo, perché non è umano non presentare questa possibilità. Ricordo tempo fa un amico che mi diceva: "È morto il nonno", e allora il bambino più grande, di 6 anni circa, parlava con la sua amichetta e diceva: "Adesso il mio nonno è in cielo." E questo papà ascoltava i dialoghi tra i bambini un po' a distanza, e l'amichetta che si è messa a ridere, ma quasi in maniera sarcastica, come dire: "In cielo, ma credi a queste favole?" E questo mi raccontava: "Sai, questa bambina è molto amica di mio figlio, ma i suoi genitori sono atei." Quindi questa bambina è cresciuta dicendo: "Ma no, quando si muore, punto. Il massimo che si va sottoterra, si diventa un albero o un girasole." 6 mesi dopo non si ammala la mamma di questa bambina, un tumore, in pochi mesi muore. Mi diceva quest'uomo: "Avessi visto la disperazione, ecco, sul volto di questa bambina." Eh sì, perché gli era stata rubata la speranza, gli era stata rubata la possibilità di sapere che la sua mamma era ancora viva. Quanto è importante, lo dico a tutti voi che ascoltate, a me stesso per primo, proprio infondere questa speranza nei più piccoli, anzitutto dicendo abbiamo tutti una mamma in cielo, che è la Madonna. E questa mamma in cielo accoglie tutte le persone a noi care quando muoiono, la mia mamma, la mia nonna, mio fratello, con questa prospettiva che è la verità che Dio è venuto a rivelare all'uomo per liberarlo dal maligno, dalla morte, dal peccato, ci viene insegnato nel catechismo, con questa prospettiva un bambino affronta anche la morte. E non c'è quella perdita di orientamento, quella crisi per cui poi appena adolescenti si perde il gusto di vivere perché non si sa come affrontare la questione. Quanti ragazzi ho visto di 16-17 anni alla morte del nonno andare in crisi totale, senza più una risposta, iniziare ad avere problemi proprio a livello di psicopatologie, di disturbi del sonno, dell'alimentazione, attacchi di panico, di ansia, perché incapaci di rispondere alla domanda delle domande. Ma la morte? Come la affrontiamo? Ora, questa realtà terribile, la morte, sovente se ne esorcizza la paura dicendo, ma in fondo non è parte della vita? In fondo non è semplicemente la fine naturale di un percorso che è la vita terrena? Le piante, gli animali, gli uomini nascono e muoiono. Ora, è vero che la morte è una realtà terribile, però io dico che è terribile solo per chi pensa che la morte è la fine di tutto, mentre è altrettanto vero che la vita sovente è qualcosa di drammatico. E questo capita per ogni uomo, a prescindere dalle sue convinzioni filosofiche, morali o religiose. La vita è una realtà fragile, effimera. La vita di ogni uomo è destinata a finire indipendentemente dalla volontà dell'individuo. Uno può anche tentare di abbreviare i propri giorni, si può anche compiere il suicidio stoico di protesta contro i mali della vita, ma non puoi allungare la tua vita. Il Vangelo ce lo ricorda bene, nessuno, per quanto si dia da fare, può aggiungere anche una sola ora alla propria esistenza. Ecco, anche in questo caso si può dimostrare quanto drammatica sia la realtà della vita facendo riferimento ad autori che non sono certo di ispirazione cattolica, non sono i classici credenti. Penso ad esempio a un filosofo tedesco, Arthur Schopenhauer, che vive tra la fine del Settecento e la metà dell'Ottocento, e lui affermava che la vita è come un conto alla rovescia, che è puntato sulla deadline, la linea di morte nel senso letterale. E penso ancora a Jean-Paul Sartre, che nel Novecento è stato uno dei massimi esponenti dell'esistenzialismo francese, ateo, che diceva: ogni sera siamo più poveri di un giorno. E alla fine significa che c'è come un conto alla rovescia, l'idea è quella comune anche a Sartre. E pensava Sartre che la morte è un evento di una tale portata che rappresenta paradossalmente l'aspetto caratterizzante della vita stessa. Infatti, nel suo libro L'essere e il nulla del 1943 leggiamo: la morte è il fenomeno della mia vita personale che fa di questa vita una vita unica. C'è una vita che non ricomincia, dove non si può mai tornare indietro. E cosa fa quindi Sartre? Cerca di far vedere che la morte fa parte della vita. Tuttavia, bastano queste citazioni per far comprendere come l'uomo di tutti i tempi, credente o non credente, capisce che nella morte non c'è niente di naturale e nulla di facilmente accettabile. Un eco si trova anche nella sapienza biblica, penso al libro dei Salmi, dove si indica la fragilità della vita umana con un'immagine molto eloquente, è l'erba. Il Salmo 89, al versetto 6, dice: dell'erba che al mattino fiorisce, germoglia, alla sera è falciata e dissecca. E ancora un messaggio della regina della pace a Medjugorje, che in 40 anni di apparizioni tante tante volte ci ha ricordato che siamo pellegrini sulla terra in cammino verso il cielo, quando dice nel messaggio del 18 marzo 2003: chi siete voi e cosa fate sulla terra dal momento che andrete a finire sottoterra? È un po' crudo forse, ecco, questo interrogativo, ma sembra quasi un ammonimento perentorio a non dimenticare la propria fragilità, il proprio essere in cammino. Però questa è la questione: se sono semplicemente destinato a finire sottoterra, ma allora chi sono? Che significa anche che senso ha la vita? E queste parole non sono interrogativi di un credente, sono le parole che ogni uomo ragionevole e consapevole dovrebbe porsi. Una delle differenze che c'è tra l'uomo e l'animale non è soltanto la libertà, il fatto che l'uomo è capace di amare mentre l'animale segue l'istinto della riproduzione sessuale. Una grande differenza è che l'animale non è consapevole di dover morire. L'uomo sì. Che quindi la morte non sia una realtà facilmente accettabile, lo si ricava da diversi indizi sulla riflessione non solo di credenti, non solo della sapienza biblica, ma anche dei filosofi non credenti. E poi si ricava anche dalle reazioni concrete dinanzi all'ipotesi della morte. Io ricordo tanti anni fa venne fatta un'intervista da un giornalista a un politico, della storia italiana, ateo professo, quindi materialista convinto, comunista, e di fronte alla domanda del giornalista che diceva: ma lei cosa pensa della morte? E questo risponde anche con un po' di soddisfazione: ma non temo la morte perché non è una fonte di pensiero per me, la considero un evento naturale, è una parte integrante della vita e quindi qualunque essere razionale, considerate queste premesse, dovrebbe accettarla in maniera abbastanza facile. Al che il giornalista, incalzando la bruciapelo, gli chiede: sì, ma e se morisse sua moglie? E questo politico comunista, ateo, tanto sicuro di sé, sbiancò e ammutò lì. E sì, perché la morte è sempre drammatica. Potresti dire: non mi preoccupa la mia morte, nel senso che non ti chiedi che cosa sarà di te dopo. Ma quando pensi alla morte di chi ti sta a cuore, è come se entrassi nel considerare concretamente la possibilità della morte in chi ti sta a cuore. E allora ti accorgi della tua impotenza, della tua fragilità, ti accorgi di quanto sia difficile, pensare di poter fare qualche cosa, di poter salvare quella persona che ami da un destino che sembra ineluttabile. In merito mi ricordo anche il primo episodio del Decalogo, che è una serie di 10 film. Di qualche decennio fa, film di un'ora circa di durata, che sono diretti da un regista polacco. Ognuno di questi film, in modo più o meno diretto, si ispira a uno dei 10 comandamenti, eh? Quindi si chiama Decalogo, la raccolta per questo motivo. Il primo, che si intitola Non avrai altro Dio all'in fuori di me, vede come protagonista un bambino che è appassionato di scienza, di informatica, e che viene assecondato in questa passione dal padre, che è un ateo e materialista, e che ogni mattina gli propone nuovi enigmi e nuovi problemi matematici da risolvere, no? Con cui lo intriga. È uno di quei padri, come ce ne sono tanti oggi, che quando il figlio gli faceva domande sulla morte diceva: ma la morte è un fatto naturale, bambino mio, si nasce e si muore, questa è la vita. E il figlio che assentiva. Però un giorno capita qualcosa che cambia la prospettiva del bambino. Di solito andava a scuola a piedi e incrociava un cane randagio che lo aspettava per un saluto, quasi avessero un appuntamento tacito ogni mattina. E una mattina, compiendo il solito tragitto, vede che il cane è morto, forse perché faceva troppo freddo, perché era inverno, forse per una malattia. Alla sera ne parla col padre e gli dice di essere stato assai impressionato da quello che aveva visto. Ieri il cane c'era, era vivo, scodinzolava, gli andava incontro, adesso era morto. E a quella vista, dice al padre, non gli era più importato dell'informatica né dei problemi di matematica o degli enigmi da risolvere. Ecco, io credo che basta un episodio, no, come questo per notare come per il cuore di ogni uomo, la morte non è per nulla qualcosa di naturale, non è un dato che si presenta all'esistenza dell'uomo di fronte al quale si può dire, beh, ma questa è la vita. Perché? Perché per quanto uno possa anche dire di non credere, è comunque dotato di ragione. E l'uomo dotato di ragione presenta una esigenza ineliminabile rispetto a tutto ciò che fa, vive e sperimenta. E questa esigenza ineliminabile è quella della sensatezza, della ragionevolezza. Quante volte diciamo, ma è assurdo vivere così? A volte ci capita che sentiamo di persone che incominciano vite di grandi sacrifici, disposti a privarsi di tutto pur di ottenere un obiettivo e quando sono un passo al traguardo muoiono. E diciamo, ma è assurda una vita così? Ma come? Capisci tu stesso che è assurdo vivere per ciò che la sola vita terrena ti può dare, perché lo puoi perdere da un secondo all'altro, e tuttavia ti ostini a voler avere uno sguardo intramondano su questa vita. E aggiungo che questa sorta di cecità che coglie coloro che non vogliono saperne di assumere una prospettiva diversa, non è semplicemente prodotto della natura umana. Non è semplicemente l'uomo che a un certo punto dice, ma sì, preferisco non pensarci, è più comodo accontentarsi, godere dei piaceri della vita. Sì, questo forse può valere quando si è magari nell'ebbrezza della gioventù che non conta gli anni, non conta i giorni e afferma di vivere ogni istante come se fosse l'ultimo all'insegna del carpe diem. In realtà, quando una persona si trova a vivere una sorta di impegno nella vita, non può non interrogarsi, non può non pretendere che ci sia sensatezza nel proprio cammino di impegno esistenziale. È come se ci fosse un'esigenza che è talmente forte che la ragione te la presenta. Poi, se tu la vuoi negare, vuol dire che, oltre alla tua fragilità umana, del dire meglio non pensarci, è intervenuto un altro, elemento. A cosa mi riferisco? Al fatto che la persona non è fatta semplicemente di corpo e di psiche, cari amici, ma anche di anima. Siamo a tre dimensioni, c'è il corpo, la mente e lo spirito, potremmo dire. E a livello spirituale non ci sono soltanto le buone ispirazioni di Dio, ma ci sono anche le tentazioni del demonio. E sicuramente una visione puramente intramondana della vita, cioè guardare alla vita come a una triste e assurda parentesi racchiusa tra la culla e la tomba, è una visione che fa molto comodo al demonio. Perché fa comodo al demonio, cari amici? Perché se non c'è la prospettiva di un oltre, non spero nulla e non temo nulla. Anche il già citato Jean-Paul Sartre, filosofo ateo ed esistenzialista francese, diceva riprendendo Dostoevsky, ma se non c'è Dio tutto è permesso. E quindi è molto contento il maligno quando riesce a metterci il pensiero che in fondo è tutto qui. Per cui anche in un ambiente come la scuola, per non dire il mondo della televisione, della comunicazione, della cultura, parla di tutto ma non parlare della morte. Parla della vita, ma come qualcosa che si ripaga qui e ora, e non accennare al fatto che ci possa essere qualcosa oltre, a meno che non parli di ciò che va di moda, gli UFO, la reincarnazione e altre sciocchezze simili. Ecco perché, cari amici, e qui mi fermo, desideravo mettere a tema non solo come il ricordo dei nostri cari non ci può bastare, ma come l'esigenza di ragionevolezza della vita esige di fare quello che stiamo cercando di fare insieme in queste conversazioni, cioè di interrogarci su questo grande dramma, su questo grande mistero che è la morte. Un mistero che però, per chi ha fede, diventa una porta che si spalanca su un'eternità beata. Ecco, qui mi fermo, ci lasciamo con una breve pausa musicale, poi torniamo tra qualche minuto con le vostre domande che, come sempre, vi chiedo siano brevi e in tema con quanto affrontato. A tra poco. Pronto? Pronto, buonasera professore. Sono Buonasera. Salvatore Telefono dalla Sicilia. Le volevo chiedere, Benvenuto. Grazie. Le volevo chiedere, in base alla sua esperienza, ai suoi studi, alle sue conoscenze, e quando il ricordo di un padre che è stato per te fonte di ogni sorta di amore, di carità, di gioia, di felicità, come è possibile affrontare questo ricordo come un desiderio di pace, di gioia, di ricerca di persona al di là del concetto umano, ma in una dimensione che è eterna e che fa abbracciare la persona nel momento di dirla più come terrena, ma come pellegrini sulla terra? Grazie. Grazie per questa domanda, grazie Salvatore, perché penso che sia la domanda di tanti all'ascolto in questo momento. E intanto è bello poter comunque dire che i ricordi belli dei nostri cari non ci bastano, ma sono comunque realtà positive, e quindi non era ovviamente il mio intendimento quello di dire dimentichiamoci dei nostri cari, anzi, ma il ricordo sia come un trampolino di lancio su una realtà molto più concreta, molto più vera. Io voglio qua citare un episodio che ricordo spesso ai miei ascoltatori, ai miei lettori, perché mi ha sempre molto colpito. Nel film sulla vita di Don Pablo Dominguez, questo sacerdote spagnolo morto una decina di anni fa, poco più che quarantenne, in un incidente in montagna, quando si chiese al padre: ma lei come vive questa perdita di un giovane sacerdote morto così tragicamente? Beh, questo padre non cade nel tranello di rammaricarsi, di prendersela con Dio, ma neanche di celebrare la memoria passata del figlio, ma guarda avanti e dice: tutte le mattine io vado a messa. E ogni volta che il sacerdote prende quel pezzo di pane e lo solleva e pronuncia le parole della consacrazione, io mi dico: Gesù, tu sei presente e sei tu che adesso io vedo, come adesso ti vede mio figlio Pablo. E questo padre aggiungeva anche: nel mio cuore sento come una voce che mi dice: è così, papà. Ecco, come passare da una dimensione puramente terrena e di ricordo a una dimensione di attesa e di comunione dei santi, perché di questo si tratta, che si apra la trascendenza. Nella preghiera, nella messa, soprattutto nella messa di suffragio, e nell'adorazione eucaristica. Proprio per il piccolo episodio che ho citato, ci tengo a raccomandare a tutti l'adorazione eucaristica come modo specialissimo per vivere la comunione con i propri cari. Pronto? Pronto, buonasera professore, sono Pierluigi da Firenze. Buonasera. Buonasera. Senta, quando lei parlava, come mi piacciono le sue trasmissioni, quando lei parlava del cercare di superare l'idea della morte attraverso il ricordo sia dei propri cari che nel ricordo anche degli altri nella storia, di essere magari di diventare persone famose e così via, mi è venuto in mente, perché mi era capitato di leggerlo qualche tempo fa, il discorso 93 di Sant'Agostino, in cui spiega la parabola delle 10 vergini, che in realtà sono due tipologie di anime, lui spiega, che hanno purificato con l'aiuto della grazia di Dio i loro 5 sensi. Sono anime pure tutte e due, però 5 sono storte, 5 sono quindi due, una è storta e una è saggia. Quali sono quelle sagge? Quelle che hanno riempito il loro cuore, cioè la loro lucerna, con l'olio della fede. Mentre coloro che invece sono stolti, hanno, benché vergini, benché purificati nei loro 5 sensi dai rapporti col mondo, sono quelli invece che hanno cercato innanzitutto il favore degli uomini. Quindi sostanzialmente, infatti le 5 vergini di sagge dicono poi alle stolte di andare a prendersi quest'olio della vanagloria dagli uomini, quando poi invece si tratta di andare di fronte al giudizio di Dio, dove saremo soltanto di fronte noi e Dio. E quindi chiaramente Dio non riconosce coloro che invece hanno agito prima di tutto per il favore degli uomini, per avere il favore degli uomini anziché il favore di Dio. E quindi sostanzialmente anche cercare, secondo me, il ricordo da parte dei propri cari, ma poi anche da parte degli altri, anziché prima di tutto di essere puri di fronte a Dio, rischia poi di farci perdere tutte le grazie che abbiamo avuto attraverso il peccato di vanagloria, come viceversa, all'opposto, attraverso il peccato di scoraggiamento. La ringrazio e l'ascolto per radio. Grazie per questo bell'intervento, è sempre bello sentire anche Agostino come rilegge alcune pagine del Vangelo che, conoscendo e sentendo così spesso, pensiamo a volte di avere già esaurito in un significato che sembra invece sempre ricco e capace di sorprenderci. Anche in questo caso è molto corretto l'abbinamento che fai e che ci suggerisci, ti ringrazio. E ecco, mi verrebbe anche da esplicitarlo ancora di più dicendo che in realtà non è sufficiente purificare i cinque sensi, ma è come se uno, ripulito bene il paio di occhiali, decidesse per che cosa usarlo. O volendo ancora il famoso cannocchiale di Galileo, se io lo uso soltanto per guardare le terre da esplorare davanti a me, mi accontenterò di essere un bravo navigatore dei mari, se invece lo punto verso il cielo scoprirò che non c'è soltanto il pianeta Terra. Ecco, qui si tratta di comprendere che tutto quel cammino di purificazione umana, per cui ad esempio anche persone che si dicono non credenti riescono a perdonare, a volte in maniera davvero edificante, chi ormai morto non può più ovviamente essere oggetto magari di non so, parificazioni, di giustizia, insomma, retributiva. E uno potrebbe dire: ma una persona così capace di perdonare, qual è il limite che ti fermi a livello umano? Come dire, non ho più niente in sospeso con te, ma ormai la tua vicenda è terminata. Invece pensate che bello quando ci si apre alla prospettiva della vita ultraterrena e uno non soltanto riesce a perdonare quella persona per il male che mi ha fatto in vita, ma riesco anche a pregare per l'anima che si trova nel momento presente dinanzi a Dio, prossima ad un giudizio, ha bisogno anche di conforto e di misericordia. Pronto, sono buonasera. Io? Dica pure. Professore, sì, buonasera. Dica, come si chiama? Io la ringrazierò sempre di quello che lei ci fa ascoltare tramite radio. È una manna dal cielo per noi. Io le dico di grazie cuore. A Dio. Grazie a Dio veramente, sono proprio contenta. Ascolti professore, io le volevo fare questa domanda. In questo momento molto particolare per noi tutti, e specialmente per me, cioè io purtroppo in tutte le famiglie ci sono mancati i nostri cari. E praticamente io ho avuto una sensazione di avere i miei cari presenti vicino a me, anche se sapevo che non ci sono più. E mi sono sentita protetta in questo momento particolare della nostra vita e anche della mia, che è arrivato a un certo punto, a volte avevo la sensazione di essere con loro in un'altra dimensione, anche se poi veramente la realtà era ben diversa, però è ancora tuttora, anche se sono passati un bel po' di settimane, io ho ancora quella sensazione di avere presente e di tornare al passato quando loro erano cioè nella nostra famiglia. Volevo sapere da lei cosa vuol dire questa mia sensazione. L'ascolto per radio e le faccio tanti auguri, professore. Grazie di tutto. Grazie a lei, ma questa penso che sia un'esperienza nella sua drammaticità purtroppo molto comune in questo tempo di pandemia. Non mancano sicuramente tanti tra coloro che sono all'ascolto, che hanno vissuto in maniera diretta o indiretta il dramma del coronavirus, perdendo persone della propria famiglia, persone conosciute, magari anche soltanto per pochi tratti del proprio cammino di vita. E questo ci ha fatto sperimentare con mano, ci ha fatto toccare quella fragilità dell'esistenza umana che in altri contesti forse avrei dovuto ribadire più e più volte, adesso è sotto gli occhi di tutti. Cosa vuol dire sentire presenti i propri cari? Ecco, bisogna capire questo sentire presenti, come portare nel cuore, avere presenti nella propria quotidianità, a che livello lo si colloca. Perché se un sentire presenti nella, così direi, nell'ottica di ricordare tutte le cose vissute, immaginate, qui ancora Agostino, potremmo citare quella pagina in cui, ricordando il suo amico, Dice ormai che tutti i posti belli visti con lui gli risultavano insopportabili. E uno potrebbe dire al contrario, ma io in realtà quando vado nei posti dove ho condiviso esperienze belle con le persone amate, provo gioia, anche bello, mi sembra quasi di essere lì non più da solo. Ecco, allora questa presenza, in virtù di che cosa la stiamo vivendo? È una presenza di ricordo o una presenza attuale? Voglio spiegarmi bene, è una presenza legata al fatto che ci sono ricordi, emozioni positive che è giusto anche conservare e coltivare legati a esperienze passate o è invece una consapevolezza presente? La consapevolezza presente è quella per cui non ricordo solo le cose belle passate, ma ho la consapevolezza di una persona che in questo momento è viva in Dio. Ricordo qualche tempo fa mi trovavo in un cimitero molto, molto vasto, vado a volte nei cimiteri a pregare anche se non sono della mia città, anche se non conosco nessuno, e uno mi dice: ma perché vai a pregare per gente che non conosci? Perché forse ci sono tanti che queste persone conoscono e che per loro non pregano o non pregano più. E mentre passo e vedo foto, lapidi a volte di tanto tempo prima, no? E mi interrogo sulle vite, cerco un po' di capire, ecco, in base alle espressioni di questi volti, chissà quale vita possono aver avuto in precedenza, però mi dico anche tante foto, ma di loro qui non c'è nessuno, perché al cimitero non ci sono i nostri cari, ci sono dei cadaveri. I nostri cari sono anime che sono entrate nel loro cammino di eternità, chi per la salvezza, chi per la dannazione, chi in paradiso, chi in purgatorio, chi all'inferno, e hanno già incontrato il Signore per il giudizio particolare. Allora, quando io dico ho presenti i miei cari, che cosa intendo dire? Che ho la consapevolezza che in quel momento i miei cari sono davanti a me in un cammino che anch'io percorrerò nell'eternità o semplicemente una presenza di ricordo? E qui ecco, si tratta un po' di dire che bisogna puntare lo sguardo verso l'alto, per cui ben venga il sentire vicino chi non c'è più, però dico anche sentirlo vicino in Dio, non soltanto nel ricordo. Bene, carissimi amici, termina così questa puntata. Il tempo a nostra disposizione, come sempre, fugge veloce. Voglio ringraziare tutti coloro che sono intervenuti e anche coloro che hanno cercato di farlo e non hanno potuto. Ringrazio quanti mi scrivono all'email o seguono il canale YouTube o scrivono a Radio Maria per porre domande e suggerire argomenti che in fondo sono un po' la ricchezza poi di questa conversazione tra me e voi. E vi chiedo come sempre una preghiera in particolare per il Santo Padre e per la Chiesa, una preghiera per tutte le persone che sono nella malattia fisica, morale e spirituale, soprattutto per le più tribolate, per quelle tentate di scoraggiamento e di disperazione. Questa sera in modo particolare vi chiedo di pregare per le mamme che sono in attesa, perché la Madonna le possa proprio proteggere e possa sempre intercedere per loro. Preghiamo poi anche per tutte le anime dei nostri fratelli defunti, in modo particolare le vittime della pandemia, ma non solo, e il Signore possa donare davvero luce e conforto a tutti i loro familiari che qui restano in cammino pellegrini sulla terra verso il cielo. Un caro saluto a tutti da parte di Diego Manetti e una santa notte. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.